Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E benvenuti anche a questa puntata del Pioniere. Oggi la nostra trasmissione arriva laddove tutto iniziò, ovvero sia alla rivoluzione socialista dell'Unione Sovietica, quando in particolare nei primi 10 anni post-rivoluzionari si inventarono e si crearono tutta una serie di realtà sociali e creative estremamente innovative, anche per far fronte all'esigenza appunto che la rivoluzione stessa imponeva. Tra le altre invenzioni sociali, quella di rivisitare le aggregazioni giovanili come quella dei Boy Scout in chiave appunto rivoluzionaria. Nacquero così i Pionieri, un nome ben conosciuto che ascolta la nostra trasmissione, che erano questi ragazzi che andavano per l'Unione Sovietica a propagandare le nuove buone pratiche, gli atteggiamenti rivoluzionari rispecchio al progresso conservatore. Questa realtà fu anche oggetto di un'indagine di un grande della cinematografia degli anni 20, Zigaverto, uno dei pionieri della macchina da presa, che con questo occhio cinema, ovvero Schino Glatz, ne raccontò le vicende. E allora con Piero Di Domenico, critico cinematografico, docente al DAMS di Bologna, nonché giornalista del Corriere, abbiamo voluto approfondire la vicenda di Schino Glatz e di Zigaverto. Nel 24 un cineasta come Zigaverto nel cinema muto celebrò nell'avanguardia sovietica questa figura dei ragazzi che andavano in giro per il paese a propagandare le nuove e buone pratiche della rivoluzione. Ma che un film che all'epoca fu decisamente dirompente, perché Vertov aveva in testa un modello molto, molto preciso e soprattutto un'idea molto, molto forte dell'utilizzo appunto dello strumento cinematografico. Vertov è un personaggio che ha avuto un'importanza notevole nella fase dell'esperimentazione dell'avanguardia dell'Unione Sovietica nascente. Fra l'altro Zigaverto è il suo nome, diciamo il suo pseudonimo, lui si chiamava Denis Kaufman, ma quello che è importante è che il suo pensiero espresso in manifesti, in periodici come ricordo Kino Pravda, Cinema Verità e poi appunto come il film Kino Glatz, cioè il Cineocchio, diedero un'impronta molto forte a quello che poi fu lo sviluppo anche del cinema sovietico, ma anche a livello internazionale. Vertov, fra l'altro, e soprattutto diciamo le intuizioni di Vertov sono state capite forse solo molto più tardi, così come altri strumenti. Io ricordo Yajtka, che erano questi film che propagandavano la rivoluzione bolscevica nelle campagne, che oggi sono andati quasi del tutto distrutti e che erano appunto un modo per, nel momento in cui il cinema era veramente uno strumento popolare, appunto di utilizzo, diffusione di contenuti. Per quanto riguarda L'uomo con la macchina da presa, che è il film manifesto di Vertov, film fortemente basato sul montaggio, perché il montaggio, così come teorizzato anche da Eisenstein, è al centro di quel periodo, di quell'epoca e di quella stagione. Film che non può essere semplicemente accostabile o etichettabile come documentario, perché l'occhio della cinepresa per Vertov è un portatore del messaggio rivoluzionario, non un suo riflesso, ed è il montaggio che riesce a stabilire delle connessioni che altrimenti sarebbero impercettibili. In questo senso anche i tratti ironici che sono nascosti appunto tra le pieghe di questo film e degli altri film di montaggio di Vertov, la critica verso i modelli predominanti di vita borghese, l'accostamento ad esempio tra le mani curate di donne che non lavorano rispetto a quelle delle operaie. Ma Piero, rivedendo oggi i pionieri di Zica Vertov, si ha l'impressione di giovani rivoluzionari che dicono le masse o di una sorta di nuova polizia diffusa che prefigura un stalinismo? No, non credo, nel senso che in realtà l'energia, la fiamma che animava Vertov e i tanti che con lui giravano, fra l'altro, perché c'era anche questa idea, no, di una diffusione che ovviamente passava anche attraverso un'azione, come dire, fisica, cioè un movimento fisico. Vertov e i suoi compagni battevano a tappeto anche l'Unione Sovietica, ma in realtà quello che per loro era importante era riuscire, come dire, a comunicare queste idee. Non c'era un dietro di una imposizione delle stesse, cioè a loro interessava soprattutto non solo ovviamente la diffusione dei contenuti rivoluzionari, quindi un'idea ovviamente di cinema anche molto militante, ma c'era anche tutto un lato che effettivamente questo solo apprezzato molti anni dopo, di fascinazione nei confronti proprio delle possibilità dello strumento cinematografico, cioè dell'occhio che guarda attraverso la macchina da presa, che è molto lontano da un'idea di totalitarismo, di settarismo politico, anzi è veramente agli antipodi, quasi un po' messianica nei confronti dello strumento cinema, no? Che è uno strumento così nuovo e così potente che, se trattato e ovviamente valutato, utilizzato anche al di fuori di quelle che erano i modi allora dominanti, avrebbe potuto in qualche modo aiutare, contribuire a migliorare la vita di tutti. Negli anni 30 arrivò la normalizzazione, la grande gelata staliniana, quando si impose lo zdanovismo e tutte quelle avanguardie cinematografiche, letterarie, artistiche e sociali che avevano promosso la rivoluzione negli anni 20 vennero prima dimenticate e poi perseguitate. Per ritrovare un'attività intensa, per esempio nell'animazione di film per ragazzi cartoons, dobbiamo risalire agli anni 50, quando appunto lo stalinismo andava scemando. Ancora con Piero Di Domenico, giornalista nonché docente al DAMS di Bologna e esperto cinematografico, indaghiamo su questa capacità artistica notevolissima dell'Est di produrre movie per ragazzi. Dunque, il tema ad esempio del cinema di animazione è un tema veramente interessante e purtroppo anche analizzato, studiato pochissimo anche al di fuori dell'ex cortina dell'Est. Noi abbiamo un po' la convinzione, come dire, occidentalcentrica, no? di un'animazione che passa tra Stati Uniti e Giappone al più, quando invece in tutti i paesi, in tutto il blocco dell'Est, tutto il blocco, quindi dell'influenza sovietica, dalla Cecoslovacchia alla Polonia alla Jugoslavia, hanno operato in particolare dopo lo stalinismo, cioè tra gli anni 50 e fino agli anni 80, quindi fino al crollo del muro di Berlino, hanno operato tantissimi autori che hanno sviluppato delle tecniche e delle modalità davvero innovative. Penso alla puppet animation, al cut out, allo stop motion, cioè tutte tecniche. Poi ci siamo ritrovati nei grandi prodotti di animazione, nei grandi blockbuster di animazione digitale, via dicendo, e che questi autori dell'Est Europa hanno portato avanti, fra l'altro con dei ritmi, dei tempi anche molto diversi da quelli che erano ad esempio i ritmi ossessivi di lavorazione dell'animazione giapponese o anche americana. È chiaro che in particolare nel quadro della produzione dell'animazione sovietica, l'animazione, diciamo che è stato un terreno su cui si sono misurati tantissimi giovani artisti che sono partiti e sono stati stimolati dai movimenti di avanguardia in tutte le arti figurative e sono stati i motori della sperimentazione di nuove tecniche. Penso ad esempio all'utilizzo di marionette piatte, che era un mezzo che economizzava, cioè serviva a ridurre anche la quantità di disegni necessaria per comporre una scena, e che poi è stata riutilizzata, ma nasce proprio in quel contesto, nasce dai grandi nomi del cinema di animazione russa, che oggi ci dicono ancora poco, ma che invece sono nomi fondamentali come Ivanov Vano, Alexander Prusko o ancora altri personaggi che sono arrivati poi fino agli anni 80 con la loro attività e che fra l'altro si sono mossi, ripeto, sempre seguendo delle traiettorie anche di racconto, cioè quindi non solo anche da un punto di vista tecnico e formale, ma anche da un punto di vista proprio di soluzioni estetiche e di modalità narrative che sono state estremamente libere. Questo è un elemento cui probabilmente fa un po' fatica a rendersi conto, ma l'animazione è stato veramente invece un terreno di estrema possibilità, di estrema sperimentazione, anche, come dire, in un momento di controllo dal centro che era molto forte, tant'è che poi quando negli anni 80 sono prolificati gli studi di animazione rispetto allo studio centrale che era il Soyuz Multfilm di Mosca, ecco, c'è stata una sorta di diffusione, di colata lavica attraverso mille rivoli capillare, che però è partita proprio dal fatto che dentro questo magma tantissimi giovani disegnatori e animatori hanno potuto appunto sperimentare dei modelli che sono rimasti in maniera indelebile. Un'ultima domanda, allora: questo patrimonio ha in qualche modo scavalcato il muro di Berlino? È stato recepito dai disegnatori francesi, italiani, insomma occidentali, dell'Europa occidentale? Sì, più di quanto possiamo immaginare, nel senso che questi film, questi lavori, fra l'altro spesso sono ispirati anche a materiali narrativi di partenza che erano improbabili, fiabe di Perrault, novelle di Hemingway, quindi cioè, anche da un punto di vista proprio della base di partenza c'era un'estrema varietà e una chiusura molto meno ermetica di quanto solitamente si pensi. Ed è vero che questi film in Occidente praticamente non si sono visti, non sono arrivati se non attraverso qualche passaggio raro, insomma in qualche festival, ma in realtà c'è stata una sorta factory, c'è una factory di, come dire, molto più universale che riguarda gli appassionati, le persone che lavorano con l'animazione, lavorano con il disegno, che una comunità invece che in qualche modo era in grado di superare le barriere anche quando queste barriere erano molto, molto forti, anche negli anni della Guerra Fredda. E sicuramente se noi oggi andiamo a vedere alcune anche tecniche, modalità di lavoro appunto che sono largamente utilizzate, scopriremo che all'origine e alla base spesso ci sono state intuizioni che vengono proprio dall'est europeo. Dunque, con Piero Di Domenico, critico di cinema, abbiamo analizzato Il pioniere secondo Ziga Vertov e anche l'arte di animazione dei corto nell'est Europa. Spostiamoci invece nel nostro mondo prima della guerra e cerchiamo di capire cos'era il fumetto in quel periodo, come si rapportava con la fumettistica fascista e cosa rappresentò poi il pioniere rispetto anche a questi fumetti pre-evento bellico. Lo fa la nostra Morena Moretti del CRAP intervistando Yuri Meda, storico, docente all'Università di Macerata, nonché curatore di questo libro estremamente importante, Falce Fumetto, storia della stampa periodica socialista e comunista per l'infanzia in Italia dal 1893 al 1965. Ascoltiamo. Meda, tu hai lavorato molto per riportare alla conoscenza un po' di tutti della storia dei periodici socialisti e comunisti, quelli dedicati all'infanzia. Periodo fine secolo, diciamo 800, inizio 900. Questo perché hai ritenuto, anche insieme ad altri autori naturalmente, che fosse un argomento un po' abbandonato nella storia, diciamo, della letteratura per i ragazzi in Italia. L'argomento era stato poco studiato. In realtà negli anni 70 aveva cominciato Giovanni Genovesi, che è un pedagogista ormai in pensione, che lavorava all'epoca presso l'Università di Parma, aveva iniziato appunto a fare un primo studio proprio dedicato più latamente a tutti quanti i periodici italiani, e poi aveva introdotto all'interno del suo libro un'analisi soprattutto del cuore, sì, che era questo periodico socialista che in realtà poi è stato molto dimenticato all'interno della riflessione storiografica. Poi successivamente negli anni si sono succeduti anche altri studiosi che hanno cercato di portare alla luce questa memoria, questa storia di questi periodici, e soprattutto mi viene in mente Silvia Franchini, perché era stata quella che non tanto tempo prima che uscisse Falce Fumetto, quindi nel giro dei partire dal 2000 arrivare fino al 2010, ha dedicato molto tempo allo studio delle corrispondenze che erano uscite sul pioniere, curate soprattutto da Dina Rinaldi, che rimane una delle figure più luminose insomma di questo periodico. Quindi ecco, diciamo, sostanzialmente la memoria, la riflessione storiografica direi ancora di più, si era concentrata su due casi fondamentalmente, cioè sul pioniere e su cuore. Si era dimenticato però quasi completamente l'ampia messe di giornalini che erano stati prodotti in ambito prima socialista e poi comunista dopo appunto la fine della Seconda Guerra Mondiale, e che il libro in qualche modo è riuscito a ricostruire e a riportare alla luce. C'era un'esigenza del Partito Comunista, del Partito Socialista prima, di evidentemente porsi il problema dell'educazione dei fanciulli e dei ragazzi in qualche modo. L'esigenza educativa sicuramente è molto importante, questo soprattutto lo vediamo leggendo il libro all'interno dei primi periodici, cioè i periodici, diciamo così, tra l'Ottocento e il Novecento hanno un approccio educativo molto forte, che rimarrà anche successivamente, ma successivamente inevitabilmente. Teniamo conto che quando parlo di successivamente intendo il periodo che va grosso modo tra la Prima Guerra Mondiale, tra il 1914 e poi successivamente il dopoguerra, quindi il 1950, il periodo, diciamo, del pioniere. Ecco, in questo periodo, che è un periodo logicamente attraversato da molte tensioni politiche, pensiamo solamente alla lunga stagione di silenzio a cui saranno obbligati questi periodici a causa del fascismo, le esigenze educative cederanno molto il passo a quelle propagandistiche, ideologiche. Coglie molto l'attenzione, da quello che ho potuto constatare, da lettere di persone che hanno molto apprezzato il libro, dalle presentazioni che abbiamo fatto in giro per l'Italia alcuni anni fa, che il periodico che colpisce di più l'attenzione è quasi sempre il Fanciullo Proletario, perché il Fanciullo Proletario in realtà non è un periodico per bambini, cioè lì proprio l'intento educativo cede il passo quasi completamente, anzi direi proprio completamente, ha un intento che è eminentemente propagandistico, quasi di militarizzazione insomma dell'infanzia, militarizzazione nel senso che i personaggi di questo periodico, che sono dei bambini molto combattivi, sono in realtà, diciamo così, gli antagonisti naturali dei Balilla che stavano fiorendo un po' in tutta Italia, tant'è che questo periodico si chiamava periodico clandestino per l'infanzia, Il che, se ci pensate, è quasi una contraddizione in termini, no? Come può essere un periodico per bambini clandestino? E quindi ecco, questo dà la dimensione un po' delle due grandi tensioni che attraversano questo tipo di stampa periodica. Da un lato c'è quella educativa sicuramente molto forte, dall'altro però c'è anche quella ideologica, quella propagandistica, quella politica. E la rivista Il Pioniere, che noi ci occupiamo di questo in particolare, anche lì intende educativo ma anche propagandistico. In questa rivista per ragazzi ci sono i due elementi, diciamo, sì, insieme. Nel Pioniere c'è anche qualcosa di più, credo, cioè c'è anche una figura che è centrale, che è quella di Gianni Rodari. Esatto. Ma anche quella di Dina Rinaldi, cioè c'è anche la capacità nel Pioniere, diversamente forse a quelle che erano state le esperienze precedenti, di offrire un prodotto editoriale, ma anche letterario, anche illustrativo, di grande qualità a quella che è l'infanzia italiana. Teniamo conto che i periodici precedenti, in qualche modo, tranne forse Cuore, ma anche Germoglio, insomma, forse anche Primavera, che era stata una delle prime, avevano avuto una qualità decisamente superiore a tutta la media degli altri periodici per l'infanzia che abbiamo trattato nel libro. Ma logicamente Pioniere, con questi due pilastri, la Rinaldi e Rodari, raggiunge un livello nella realizzazione delle storie, delle favole che vengono raccontate, nell'impianto illustrativo, nell'adozione del colore, che è fenomenale. E questo, secondo me, spinge più in là l'asticella, nel senso che si riesce a trasmettere dei valori, direi forse, più che a fare propaganda, attraverso uno strumento accattivante, attraverso uno strumento che piace molto ai bambini. Teniamo conto che Il Pioniere divenne, come d'altronde testimonia la vostra trasmissione, no? E come testimonia anche il gruppo che si sta raccogliendo attorno, in realtà, a Carlo Zaia, con l'esperienza del sito dedicato proprio al Pioniere e degli ex pionieri. Divenne un vero e proprio fenomeno, in qualche modo, di costume, cioè raccolse attorno a sé, come già avevano fatto altri grandi periodici per l'infanzia precedentemente, basti ricordare, forse qualcuno degli ascoltatori se lo ricorderà, insomma, Il Giornalino della Domenica di Vamba, oppure Il Corriere dei Piccoli di Silvio Spaventa Filippi agli inizi, e poi successivamente, no, nel dopoguerra, con altri direttori che si sarebbero avvicendati. C'è la grande capacità attrattiva nei confronti dell'infanzia, l'infanzia che si raccoglie attorno a questi periodici, sodalizza e va a costituire, diciamo così, un universo di valori, va ad amalgamarsi, ad aggregarsi attorno a un universo di valori che diventa in qualche modo un elemento identitario forte, ed è per questo motivo, credo, che poi ancora tanti di loro oggi si incontrano, si sentono in qualche modo figli di uno stesso padre, e in molti casi, al di là del padre biologico, questo padre era proprio questo periodico. La pendule fait tic tac tic tic, les oiseaux du lac pic pac pic pic, glou glou glou font tous les dindons, et la jolie cloche ding ding dong, mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante loving bloom, au rythme de ce boum, qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas et il y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la bichotte à bois fait mec, la vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic plac, mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu du boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Oh, boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum. Je n'entends que boum, boum, ça fait toujours boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum. L'ultima parte di questa trasmissione è anche l'ultimo capitolo della strip legata a Cipollino, l'eroe di Rodari, che da fumetto si è fatto questa striscia radiofonica. È quindi l'ultimo capitolo della lotta di classe dell'orto. Da una parte c'è il potere, General Limone, Pomodorone, l'esattore, dall'altra parte c'è Cipollino e i compagni di lotta. Dopo tanti anni di vessazione e dittatura, finalmente arriva la rivoluzione. Chissà cosa vorrà sta malvagia con le ingiustizie! Prima di distruggere la costruzione abusiva di Sarzucca ho qualche annuncio da fare! A cominciare da oggi, ispirare costerà 5 denari ed espirare 6 denari! E vi posso assicurare che chiunque di voi dovesse rifiutarsi di pagare sarebbe severamente punito! State zitti o tasserò anche le grida! Silenzio! È ingiusto! No, questo è troppo! Inoltre, popolo, sempre da oggi è stata istituita una soprattassa per alcuni generi di lusso. Per esempio, per la pioggia ordinaria 100 denari! Per i temporali saliamo a 200 denari! Con tuoni e fulmini 300! E ora l'ultimo punto all'ordine del giorno! Sarzucca si è macchiato di un reato grave, anzi gravissimo! Costruzione senza regolare licenza e progetti approvati! Perché sia di esempio agli altri, la sua casa sarà... abbattuta all'istante! Puntate! Fermi! Fermatevi! Sotto specie di agrume acido e pomodoro guasto, siete andati troppo oltre con i vostri soprusi e adesso volete toglierci anche la camicia! Voi avete tutto quello che volete, mentre noi non abbiamo neanche lo stretto indispensabile per sopravvivere. Le nostre case sono vuote e le prigioni sono piene. Noi abbiamo gli stessi diritti, ma voi lo dimenticate, perciò io dico che la casa di Sarzucca non verrà distrutta. Prendiamoli! Aspettiamoli! Aspettiamoli a soffrirci! Prendiamoli subito! Prendiamoli presto! Così, dopo che i brutti guasti se ne furono andati, Cipollino poté ricostruire il regno. Divenne un luogo in cui ogni seme poté sviluppare le sue potenzialità, a prescindere dalla sua estrazione sociale, natura e forma. Cipollino e i suoi amici vissero felici e contenti da quel giorno in poi. E questa è la fine della storia del bambino Cipolla. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balun. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare?